Capitolo 2. Il baluginio delle lucciole. 3 giorni dopo, il 14 Ecatombeone, quando il sole era già alto, dalla nave avvistammo la testa di bronzo di Atena armata, la colossale statua di Fidia sulla lontana Acropoli. Nella rada del Cantaro scorsi l'entrata dell'ufficio di Firomaco. Lottai per frenare la mia rabbia. Demos mi giurò che prima o poi saremmo andati a trovarlo. Ora però dovevamo trovarci una sistemazione ad Atene. Vi entrammo dalla porta del Pireo, dopo parecchie clessidre di cammino. Ero nervosa, faceva caldo, e continuavo a pensare a Marpessa. Avrei voluto recarmi subito a casa di Demostene, ma sia l'astenia che Demos me lo sconsigliarono. Meglio la libreria di Ofione. Quando attraversammo il quartiere del Melito, l'astenia si fermò a casa del nostro benefattore. Dalla moglie Neda seppe che Focione non era ancora rientrato dall'agorà. Allora l'astenia ci pregò di raggiungerla lì appena possibile, al numero 25 di via degli Alseidi. Lei, nel frattempo, avrebbe approfittato per recarsi ai bagni pubblici. Prese a trascinare Demos con furia, il cuore mi batteva sempre più forte. Cos'era successo in quei mesi? Iperide, che aveva fatto? Che ne era stato del tiaso dei copisti? E poi c'erano Peribea, Difilo e Marpessa. Demos cercava di calmarmi, ma io ero in preda ad un'apprensione inspiegabile e non volevo ascoltarlo. Entrammo nella piazza infuocata dal sole, mi diressi verso la via dell'Areopago. Era la prima volta che Demos veniva ad Atene. Continuava a fermarsi, impressionato alla vista dell'agorà e dell'acropoli, ma io non lo aspettavo. Quando mi precipitai nella libreria, gli occhi spiritati di Ofione si alzarono dal foglio che stava esaminando e si spalancarono di gioia. Ci abbracciamo prima ancora di salutarci. Gli passai una mano tra i capelli irti. Ofione mi fissava emozionato, scuotendo il capo. «Questa notte dormirò, Ossiotea. Che gioia tornare a vederti! Devono essere stati mesi duri. Non ce l'avrei mai fatta senza di lui». Mi girai verso Demos, che se ne stava fermo sulla soglia. «È il mio compagno», precisai. «Poi mi ha salvato la vita». Le grosse mani di Ofione strinsero le braccia di Demos. Poi il vecchio tornò a guardarmi. «Dimmi, amica mia, avete un letto? Dove dormire questa notte?» Dovete notare l'espressione incerta sul mio volto. Ebbe il più gioioso dei sorrisi. «Allora verrete a casa mia». Abito non molto lontano da qui, al quartiere del Melito, in via delle Oreadi. È una piccola dimora, ma dignitosa, e c'è una stanzetta che vi aspetta. Ma io ero ansiosa. Volevo sapere. La mia agitazione doveva essere visibile. Fra poco chiuderò la bottega e ce ne andremo, così ti racconterò tutto, mia piccola dea. Ma colsi il suo sguardo che mi evitava, rifugiandosi in quello di Demos. Gli posi le mie mani sulle spalle, lo costrinsi a guardarmi. «Dimmi, ti prego». Dimmi che ne è stato di Peride e degli altri, soprattutto di Marpessa. Ti scongiuro, Fione, dimmi che stanno tutti bene. Ma i suoi occhi non sapevano mentire. Non c'è nessuna novità di rilievo per quanto riguarda il tiaso dei copisti, tranne il fatto che tutti hanno contribuito con i loro risparmi a tirarti fuori dall'aurio. Tutti ti vogliono bene, Assiotea, anche quelli che non ti conoscono. Un velo umido gli offuscò lo sguardo. Perché non mi hai salutata come al solito? Perché non mi hai detto di rallegrarmi ed essere felice? Ofione, ti scongiuro. È successo qualcosa a Marpessa, vero? Vedendolo ancora più emozionato, gli detti uno scrollone. Demostene, l'ha sorpresa a copiare qualche lettera. È così? Il vecchio scuoteva il capo, mentre i suoi occhi emozionati cercavano rifugio in quelli di Demos. Il mio compagno mi strinse con dolcezza, cercando di calmarmi. Ofione si mise a sedere sul banchetto, respirò a fondo. No, le cose non sono andate così, e nessuno saprà mai veramente quello che è successo. Si morse le labbra facendosi forza. Firomaco, il tuo accusatore, il maledetto ufficiale che lavora al Pireo, venne qui a comprare un libro. Lo riconobbi, gli sputai in faccia. Voleva chiamare le guardie. Era inferocito. Demostene lo accusava di avergli causato la perdita delle due copiste e voleva da lui un risarcimento. Era stato lui la causa. Mi raccontò quello che era successo il giorno stesso che ti avevano imbarcata per il Laurio. Marpessa era scappata di casa, si era diretta al Pireo e era andata da lui. Lo aveva scongiurato di fare un cambio, di mandare alle miniere lei al posto tuo e di farti fuggire, di farti tornare a Filionte oppure di lasciarti rifugiare a Megara. Era sconvolta, disposta a tutto. Naturalmente lui le rispose che non poteva fare nulla, che non dipendeva da lui. E accorgendosi che Marpessa nascondeva un'arma in una bisaccia che aveva con sé, chiamò le arcieri. Ma lei riuscì a fuggire, a rifugiarsi nel tempio di Artemide, dove Eofione riuscì a frenare l'emozione che gli attanagliava la gola, dove gli arcieri la trovarono poco dopo, ai piedi dell'altare dei sacrifici. Era in un lago di sangue. Si era conficcato un coltello nel cuore. Povero amore. Non facevo che piangere tra le braccia di Deimos. L'avevo sempre saputo. Anche lì, nell'inferno delle miniere, sentivo che lei non c'era più. Ofione protese una mano, mi sfiorò il braccio sinistro, il marchio. Demostene non volle nemmeno che fosse seppellita nella tomba di famiglia, al ceramico. Marpessa aveva osato togliersi la vita e, secondo la legge, non aveva diritto a una sepoltura. Demos baciò le mie guance umide di pianto. Marpessa ha vissuto anni terribili, ma un giorno è stata ripagata di tutto, incontrandoti, e mi stringeva, facendomi sentire allo stesso tempo la sua forza e la sua dolcezza. Ofione ci pregò di accettare la sua ospitalità, voleva parlare con me e raccontarmi tante cose. Ci offrì la chiave di casa sua, ma gli spiegammo di Lastenia che ci attendeva a casa di Focione. Abita in una stradina accanto alla mia. Allora ci vediamo là, fra poche clessidre. Voi però dovete comprarvi qualcosa che copra i vostri marchi a fuoco. C'è una bottega subito dopo la casa delle fontane, qui di fronte. Ci immergemmo negli scialbi riverberi del sole che cominciavano a piegare verso il Pireo, verso il mare. Fummo accolti nella casa di Focione da sua moglie. Neda ci disse che il marito era nel cortile a sollevare l'acqua dal pozzo. Ci offrì la possibilità di lavarci, ma rifiutammo. Saremmo andati dopo a un bagno pubblico. Allora prese una bacinella di rame, la riempì d'acqua e non volle sentire ragioni. Volle lavarmi i piedi. Poco dopo giunse Focione con un grosso catino pieno d'acqua. Lo appoggiò per venirmi ad abbracciare. Il suo volto austero si schiuse a un sorriso. Siamo riusciti a cancellare almeno una delle tante ingiustizie che hai subito, Assiotea. Grazie, signore. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Questo è il mio compagno Demos. Era con me alle miniere dell'Aurio. Mi ha salvato la vita pochi giorni fa. È stato riscattato con i soldi di Eudosso di Cnido, amico di Lastenia. Benvenuto in casa mia, Demos. Vi prego entrambi di onorarmi, restando a cena con noi. Poi tornò a fissarmi. Chi si legge in faccia che hai saputo della tua amica Marpessa? Mi dispiace, fu un evento impossibile da prevedere. Feci un'indagine, mi recai al Pireo con un magistrato, interrogai Firomaco e gli arcieri che avevano rinvenuto il corpo. La loro versione sembra attendibile. Parlai anche con Demostene, con Peribea e con Difilo. L'unico tassello mancante sono 300 dracme e qualche monile d'oro che Marpessa aveva con sé e che era riuscita a ottenere da tutti gli schiavi della famiglia di Demostene, dalla concubina e dalla moglie, dicendo che potevano servirle per il suo riscatto. Gli arcieri, il sacerdote del tempio e le due prostitute sacre presenti il giorno della tragedia, dichiararono che nessuno l'aveva toccata dopo il suo ritrovamento. L'hanno uccisa, Focione, proprio come uccisero mia madre. Marpessa non si sarebbe arresa, anche dopo aver ricevuto il rifiuto di Firomaco. Avrebbe spinto Fione a fare da coordinatore per potermi tirar fuori dall'Aurio. Sarebbe partita, sarebbe venuta fino alle miniere per vedermi, per fare la flautista, per provare a tirarmi fuori da lì. Non si sarebbe mai uccisa, sapendomi imprigionata in quelle gallerie. Lei era atea. Non avrebbe mai cercato rifugio in un tempio, non avrebbe mai recitato una scena da tragedia teatrale. Cercai di frenare la mia emozione. Puoi aver ragione, Assiotea. Tu la conoscevi bene, ma non riesco proprio a immaginarmi Firomaco che si sporca le mani per 300 dracme. Non è il tipo. È un democratico non illuminato, ma è un cittadino onesto. Non lo vedo nel ruolo di ladro e assassino. E scuoteva il capo incredulo. Poco dopo picchiarono alla porta Ofione e Lastenia. Si erano incontrati ai bagni pubblici e avevano fatto il percorso assieme. Lui le aveva già raccontato di Marpessa. L'astenia venne ad abbracciarmi, poi sedette accanto a me in silenzio, con una tale compostezza e dignità per il mio dolore che gliene fui grata. Iperide non dovrebbe tardare, mi sono permesso di farlo avvisare, intervenne Ofione. Poco dopo il nuovo arrivato si precipitò all'interno della casa. Gli occhi azzurri di Iperide mi cercarono affannosamente, mi afferrò alla vita, costringendomi ad alzarmi. Sei viva! Viva! Gli presentai Demos e l'astenia. Focione lo invitò a sedere accanto a lui. Iperide lo accontentò mentre un velo di delusione gli intristiva il bel volto. Io e l'astenia gli raccontammo di Demos e delle statuette, ma lui non riusciva ad abbandonare i miei occhi. Assiotea, credimi, fu tutto così improvviso. Difilo e Peribea volevano accompagnare Marpessa, ma lei non volle. Forse già progettava di partire anche lei per il Laurio. Scuoteva il capo, sconsolato. Marpessa è stata uccisa dopo aver parlato con Firomaco. O è stato lui, oppure conosce l'assassino il movente. Il dolore che in quel momento mi univa a Iperide peggiorava il mio stato. Demos mi strinse a sé e poi prese la parola. Voi avete fatto il possibile per aiutarla e per sapere come sono andate le cose. Adesso io e Assiotea siamo liberi. Domani stesso andremo al Pireo e parleremo con Firomaco. Il volto di Focione era cupo come mai. Devi aver ragione tu, Assiotea. Marpessa era una creatura fragile, ma per aiutarti avrebbe sfidato Eracle e i giganti. Non si sarebbe mai uccisa. Fate bene a indagare voi. Quel poco che toccava ad Atene, molto poco in verità, l'ho fatto con scrupolo io. Fissò con estrema attenzione Iperide. Non mi piace questa storia, amico mio. Mi sento completamente disarmato e ho paura per te e per tutti voi. L'importante è che Assiotea sia uscita viva dal Laurio. Ora non è più schiava, Demos è al suo fianco e dietro ci siamo noi due a darle il nostro aiuto. Negli occhi di Peride c'era il sole, le ali del vento. L'astenia si rivolse a me. E allora domani potremo fare due visite con un solo viaggio. Andiamo al Pireo, così vi accompagno anche da Eudosso di Cnido, il compratore delle statuette, il benefattore che ha liberato Demos. Lui vive lì. La conversazione durò a lungo, si fece notte. Demos vinse la sua naturale riservatezza e partecipò alla sua prima discussione da uomo libero. Ofione lasciò a noi la stanza del piano superiore, mentre lui si sistemò nel locale del piano terra, adibito a cucina e salone. C'era una finestra, un arioso spiraglio che dava sulla collina dell'Aeropago, da cui si scorgeva un lembo dell'Acropoli che si stagliava su un meraviglioso cielo stellato. Demos aveva paura di stringermi a sé. Dovetti essere io a rifugiarmi con il capo sul suo cuore, avvinta al sudore di uomo pulito mentre le sue mani mi sfioravano il volto. Mi sentivo travolta dall'ingiustizia di quella situazione. Demos fremeva impotente quando entrò uno sciame di lucciole. Vedere quelle creaturine che accendevano e spegnevano la loro lucerna incastonata nel cuore prese a riempirmi di speranza. Cercai le labbra di Demos e le sfiorai con la mia bocca. Oh Demos, il tuo cuore pulsa per me, lo sento. Anche quello di Peride batte per te. Ma il mio è piccolo, non ami le stanze come il suo. Il mio cuore ne ha una sola. E gli sfiorai le labbra. I suoi occhi erano umidi d'emozione. Assiotea, io non potrò mai farti felice. Noi non potremmo fare l'amore. Non avremo mai un bambino nostro. Anche questa è la nostra storia. Tu sei il mio uomo. E lo baciai con disperazione. E noi un figlio, già lo abbiamo. Mi sfilai il piccolo flauto che ancora portavo al collo, infilandolo sotto il cuscino. Ma tu sai che io sono un mezzo uomo. Sentii una sua mano che squarciava l'aria dinanzi a noi, mettendo in fuga alcune lucciole innocenti. Demos, non puoi passare la vita a straziarti l'animo. Non ne parleremo più allora, ma non possiamo far finta di niente, perché in questo preciso momento io e te, invece di star qui a chiacchierare, dovremmo fare l'amore. E invece non possiamo. E questo è orribile alla nostra età, perché siamo giovani, ci vogliamo bene, il nostro sangue sogna l'amore. Ma non è solo questo. Tu e Iperide provate una forte attrazione reciproca. Si vede guardandovi. È un uomo eccezionale, ti merita. Se non diventate amanti, siete due stupidi. Dal tono della sua voce non trapelava alcun segno d'amarezza. Non riuscivo a ribattere le sue argomentazioni. Mi afferravo alle sue spalle, non trovavo le parole giuste. Cercavo di placare il suo cuore con la mia guancia infuocata. Ascoltavo il suo sangue che pulsava d'amore. Assiotea, non si può combattere madre natura più di tanto. Sono fiero di essere al tuo fianco, ma non posso essere il tuo uomo perché non mi ha concesso. E non è giusto che tu rinunci alla tua gioventù per essere fedele a un'idea bella solo per scriverci un'opera teatrale. Passò una mano sui miei cortissimi capelli, mi accarezzò una guancia, seguì la linea delle mie labbra con un dito. Al mio posto, diresti la stessa cosa, Assiotea, perché sei una ragazza onesta. E allora non intralciare il corso di madre natura. Io ti sarò accanto comunque. E quel suo dito tremante prese a seguire le mie ciglia, gli occhi, il naso, forse per disegnare il mio volto nella sua mente. Demos, ma io con madre natura ho un rapporto speciale, non ti preoccupare. Invece mentivo. Demos, ci aspettano grandi destini e sapere che a partire da domani sarai al mio fianco mi dà una forza sovrumana. Il baluginio delle lucciole disegnava il cielo della nostra camera. Mi sentivo spossata, il cuore lacero per le tante emozioni. Demos lasciò che la mia mente si rifugiasse nella valle degli inferi, alla ricerca di Marpessa, e mentre le silenziose ali di Morfeo mi afferravano, mi abbandonai ad esse. Erano le braccia del mio Demos. Capitolo 3. Sangue ai piedi di Artemide Munichia. Eudosso di Cnido, rallegrati, sii felice! L'Astenia prese a correre verso l'alta figura che camminava all'ombra del portico. Demos e io la seguimmo. Faceva caldo, nonostante l'arietta che spirava sulla collina di Munichia. Ci trovavamo all'Acropoli, nella piazza che ospitava il tempio di Artemide Munichia. Solo quando la mia amica lo afferrò a un braccio, l'uomo si fermò, volgendosi stupito. La faccia ossuta si aprì a un sorriso. Sulla cinquantina era molto più alto di quello che sembrava da lontano. Magrissimo, i capelli brizzolati, lisci, lunghi fin sulle spalle, tenuti legati sul collo da una fibbia di cuoio, la barba ispida e corta. A tracolla portava una grossa borsa. L'Astenia? Devi ancora partire per il laureo, oppure? E guardò me e Demos con curiosità. Oppure sei già tornata? La sua voce era squillante. Ti presento a Siotea di Fliunte e Demos, colui che ha riacquistato la libertà grazie alle tue dracme. L'uomo ci salutò alzando la mano destra. Questo può voler dire che forse con voi c'è anche qualche statuetta. E vedendo che l'Astenia cominciava a frugare nella sua borsa di pelle, l'uomo fece un passo indietro per potersi appoggiare a una colonna di marmo, gli occhi sognanti. Poi protese le lunghissime dita tremolanti, afferrando con estrema delicatezza il panno rigonfio che l'Astenia gli porgeva. Si abbassò, poggiò il corpo sulle gambe piegate e cominciò a svolgere il panno, liberando l'oggetto che racchiudeva. Quando la statuina rimase libera fra le sue mani, l'espressione di curiosità si tramutò in stupore. La rigirava tra le dita, lentamente. La sua voce adesso era rotta dall'emozione. La base rotta, come se fosse stata spezzata dal luogo in cui si trovava, come tutte le altre. E guardò finalmente gli occhi del mio compagno. L'hai trovata tu, Demos? Dove? Dimmi, ti prego. Nella traccia, nelle miniere d'oro del Pangeo, nascosta in una fenditura della terra assieme ad altri pezzi. Demos attese che l'uomo sollevasse di nuovo gli occhi su di lui. Ti sono debitore della vita, Eudosso. Conta su di me per qualsiasi cosa. Oltre a quella statuetta, io sono in possesso di altre due, più alcuni frammenti. Se pensi che possano servirti, è tutto tuo, tranne una che ho regalata ad Assiotea. Solo allora parve aver capito. Assiotea di Fliunte, la copista di Demostene, la copista che scrive i commenti sulla Repubblica del Divino Platone, sussurrava queste parole con gli occhi incollati alla statuetta, come se quel pezzetto di marmo nero avesse assunto un significato magico. Poi alzò il capo, mi fissò intensamente. Il suo sguardo si accese di meraviglia, scivolò di nuovo sulla scultura, tornò a cercare i miei occhi. Assiotea, Assiotea, devi venire all'Accademia. per dare un'occhiata alla mappa geografica che sto costruendo con queste statuette. Forse assieme potremo risolvere questo enigma. Sollevava la statuina, mirandola da ogni prospettiva. Le rughe del suo viso si imbevevano di aria dolce. Ma la vedete? Avete visto che lineamenti distesi, in pace con il mondo intero? Guardatela, questa creatura. È un peana alla vita e anche le altre sono tutte così. Oggi stesso visiterete i giardini di Accademo. Con un'agilità incredibile si mise in piedi. I suoi occhi mi fecero trasalire mentre mi lanciavano un lampo misterioso. L'astenia lo trattenne. Eudosso, ti prego, verremo domani all'Accademia. Dato che oggi siamo qui al Pireo, oltre che con te, avevamo programmato di andare a parlare con Firomaco, l'ufficiale che si incarica degli schiavi. È molto importante per noi. Ti prego, accompagnaci tu. Sei del posto e potresti essere molto utile. Dobbiamo scoprire perché hanno ucciso la compagna di Assiotea, Marpessa. È una lunga storia, forse non bella come quella delle tue statuette, ma per Assiotea è molto importante. Fu come averlo svegliato da un sogno. Un giorno non cambia nulla. Sì, vi accompagno da Firomaco. Oggi sarete miei ospiti, così domani possiamo andare all'Accademia. Ma preparatevi, è un posto noioso, pieno di muffa, troppo vicino al cimitero. Quel giardino di Accademo. Tornò a fissare la statuetta. Convinsi tutti e due a fare una breve visita al tempio di Artemide e Munichia. Quando entrammo nella cella, frugai nella bisaccia che Demos portava a tracolla e ne estrassi i firellini gialli che avevo raccolto strada facendo. Avanzai verso l'altare sotto la statua della dea, la dea che proteggeva le partorienti, la dea che per difendere la tona aveva ucciso Tizio che cercava di violentarla. Sul marmo bianco del pavimento, proprio sotto la statua, c'erano delle macchie scure. Mi inginocchiai, cercai di coprire quelle ombre di sangue con i firellini gialli, senza riuscirci. Mia Parpessa, piccola lucciola nella notte della mia vita. No, non ti saresti mai rifugiata qui per ucciderti. La tua giovane vita te l'hanno strappata. Mentre sfioravo il freddo marmo, sentii le mani di Demo sulle mie spalle. Cercavo di frenare il pianto senza riuscirci. Uscimmo, ci avviammo verso la rada del Cantaro, seguendo Eudosso, lasciando alle nostre spalle i porti militari di Zea e di Munichia. Demos, nel frattempo, aveva cavato dalla borsa le altre statuine sotto gli occhi avidi dello studioso. Alla loro vista, mormorò parole incomprensibili, volle sapere il luogo di provenienza. Disaron e Ion, Tracia, sempre la Tracia. Eudosso scuoteva il capo desolato, senza staccare gli occhi dalle due statuine. A Ion e a Disaron ci sono delle miniere, vero Demos? Pose una mano sulla spalla del mio compagno, chiedendogli di raccontare nei minimi particolari il ritrovamento delle statuine. Nel frattempo eravamo scesi dalla collina di Munichia, giungendo a piazza Ippodamo, nel porto del Cantaro. Ci immergemmo nella folla di schiavi che caricavano e scaricavano la merce dalle navi attraccate alle banchine. Costeggiammo il lungo portico, l'Alfitopolis, dove si vendeva la farina. Lì a fianco c'era l'edificio in pietra rossastra. Gli occhi furbi di Firomaco si spalancarono per la sorpresa, ma restò seduto al suo tavolo. Gettò un'occhiata ai due arcieri che stavano chiacchierando, appoggiati a una colonna di legno, poco distante da lui. Mi fissò a lungo. Demos lasciò che fossi io a parlare. Ricacciai in gola le mie lacrime, non la mia rabbia. Conosci Eudosso di Cnido? Noi tre siamo liberi, schiavi liberati e riscattati. Se vuoi vedere i nostri documenti, li abbiamo nelle borse. Questa è l'Astenia, suonatrice di Aulos. Questo è Demos, il mio compagno. Sai già chi sono io. Mi conosci fin troppo bene. Mi ha riscattata Focione. Sono venuta a parlare con te per sapere la verità. Firomaco si passò una mano sulla testa calva, gettò uno sguardo distratto a Eudosso e all'Astenia, mentre squadrava con attenzione Demos. Poi si rivolse a me. Una piega gli sfuggì dalle labbra. Tutto quello che avevo da dire lo riferì a Focione. La tua amica era preda della follia. Corsi un bel rischio permettendole di avvicinarsi a me. Devi prendertela solo con Iperide e Demostene, che ti trascinarono in quella storia dell'assemblea. Un'altra piega della bocca. Marpessa era lucida, disposta a dare la vita per me. Non si sarebbe mai uccisa, ben consapevole che solo da viva poteva aiutarmi. Marpessa è stata assassinata. Tu sei stata l'ultima persona con cui ha parlato. Firomaco, tu puoi aiutarci a scoprire l'assassino. Ero così emozionata che mi afferrai al braccio di Demos. Il mio compagno prese questo gesto come una richiesta di aiuto. La sua voce grave inchiodò l'ufficiale alla sua sedia. Poco fa abbiamo parlato con una delle due prostitute sacre che trovarono Marpessa in un lago di sangue sotto l'altare di Artemide. Era più o meno l'ora della pletora, più o meno come oggi. Oltre al corpo di Marpessa c'erano due arcieri e c'eri tu, Firomaco. Certo, e fu quello che dichiarai a Focione quando venne a parlare con me. Con Marpessa ci incontrammo sotto i portici della Gorà di Munichia, accanto al tribunale. Lei cominciò a urlare, a minacciarmi, ad estrarre il coltello e alla vista dei due arcieri che si lanciavano verso di lei per immobilizzarla, fuggì. Si rintanò nel tempio di Artemide e Munichia. Forse aveva intenzione di rubare qualche dono votivo per il riscatto di Assiotea. Dovette spaventarsi all'arrivo del sacerdote e si tolse la vita. La voce era ferma. Era l'ora della pletora. Firomaco, uno dei momenti più febbrili della giornata, e tu, a quell'ora, eri preso dal lavoro. Se quello che accadde fosse successo qui al porto, davanti a questo edificio o sotto il portico della farina, nella piazza qui accanto, allora sì che tutto sarebbe stato credibile. Invece è successo là, sulla collina, nella gorà di Munichia. In quei giorni al Pireo si lavorava sodo, come al solito. Marpessa venne a cercarti qui. Nel caso non ti avesse trovato, sarebbe venuta a casa tua, che si trova da queste parti. Cominciavo a capire quello che frullava per il capo al mio compagno, il quale proseguì senza dare tempo di ribattere all'uomo, i cui occhi neri ora lo guardavano con molta più attenzione. Noi faremo luce sulla morte di quella ragazza, Firomaco. Aiutaci. Come andarono veramente le cose quel giorno? Il tono della voce di Demos non era aspro, come se non volesse mostrare astio nei riguardi dell'ufficiale. Torno a dirvi che quella ragazza era completamente sconvolta. Non potete capire. E infatti venne in questo ufficio dicendomi che voleva parlarmi. Ma non qui, non si fidava. Lo avrebbe fatto solo davanti al tribunale, nell'agorà, appunto. Forse volete richiamare l'attenzione di qualche magistrato, forse la follia la spingeva a fare gesti teatrali, spettacolari, non lo so. Ma le cose andarono esattamente come le sto raccontando. La sua voce era meno ferma adesso, lievemente difettosa. I conti non tornano, Firomaco. Tu, un ufficiale della città di Atene, vieni invitato ad incontrarti con una schiava che manifesta chiari segni di follia. E accetti di andare dove ti dice lei, lontano, sopra quella collina, a qualche clessidra di distanza, allontanandoti dal lavoro, portandoti dietro due arcieri armati. All'accenno dell'uomo a voler controbattere, Demos protese una mano, facendogli segno di non proseguire. Tu stai dicendo mezza verità? Fosti tu a dire a Marpessa di incontrarvi nell'agorà, lontano da qui. Probabilmente perché lei aveva cominciato a urlare la verità sul grande ordinamento di Leucippo. Un lampo di sorpresa negli occhi di Firomaco, il volto incupito, un accenno di tremolio dalle labbra sottili. Ma non proferì parola. Demos continuò. Secondo me, Marpessa cominciò a minacciarti, proprio qui, in mezzo alla gente che andava e veniva, dove ci troviamo noi adesso. Anzi, prese a ricattarti, ordinandoti di fare in modo che Assiotea non partisse per il Laurio. Si offriva lei, al posto suo, per permettere che Assiotea potesse fuggire, imbarcandosi su una nave e rifugiarsi a Megara. Se tu accettavi, lei avrebbe portato dentro di sé il segreto racchiuso nel grande ordinamento. Se rifiutavi, avrebbe rivelato a Focione o a Iperide quello che avevo scoperto leggendo la terza copia del libro. Firomaco non riuscì a trattenere un guizzo di sorpresa negli occhi. Stava per ribattere, ma serrò le labbra che avevano preso a tremolare. Implacabile, Demos proseguì. Perché lei era riuscita a trovare un'altra copia del codice, di quel codice che racchiudeva il segreto per cui era stata uccisa la madre di Assiotea. Marpessa sapeva e aveva capito che tu avevi denunciato Assiotea all'assemblea non per amor patrio, ma per liberartene definitivamente. Quando Assiotea giunse al Pireo, tu le dicesti che non vedevi il padre Piramo da oltre 2 anni. Eppure, quando lei all'inizio ti aveva detto di essere sua figlia, a te non era venuta in mente la cosa più naturale del mondo di fare un accenno all'assassinio della madre. Mentre dopo, solo parecchio dopo, ti scappò di parlarne. Tu sapevi, Firomaco, perché in questa storia ci sei dentro fino al collo. Tu hai fatto sparire anche Piramo. Probabilmente lo hai fatto gettare in mare mentre tentava di fuggire in Trinacria, perché avevi capito che Piramo e Antinoe avevano entrambi letto la copia in loro possesso. Mentre su te non l'hai fatta ammazzare perché avevi intuito che lei non l'aveva letto, ma dato che andava facendo troppe domande, hai fatto in modo di mandarla alla miniera dell'Aurio. Tu non eri al corrente della terza copia e capisti subito che Marpessa rappresentava un serio pericolo. Devi averla convinta che accettavi lo scambio, che le avresti dato un lasciapassare per Assiotea, che avresti sistemato tutto nel tribunale, nell'agora dell'Acropoli. E per tranquillizzarlo ulteriormente, vi sareste visti lì vicino, nel tempio di Artemide e Munichia, dove le donne in pericolo cercano rifugio e protezione. La povera ragazza pensò di avercela fatta, ma non ti fidavi di lasciare il compito di eliminarla solo agli arcieri. Andassi anche tu. Marpessa ti aspettava. Tranquilla. Probabilmente il sacerdote era tuo amico. Hai fatto bere qualche droga a Marpessa per cercare di farla parlare, di sapere dove era il libro. Lei deve aver cercato di difendersi, di fuggire, e tu e i tuoi arcieri l'avete fatta tacere per sempre usando il suo coltello, proprio sotto l'altare della dea che la doveva proteggere, rubandole la borsa nella speranza di trovarci qualche indizio che ti portasse sulle tracce della terza copia del grande ordinamento. Demos aveva fatto tutto questo discorso senza emozionarsi, con una freddezza che mi aveva sconcertata. Provavo la sensazione che Firomaco ne fosse rimasto anch'egli impressionato, ma ormai non poteva più rimanere rinchiuso nel suo guscio. Ci vuole un bel coraggio per un liberto che è riuscito a scampare all'inferno dell'Aurio. Il suo primo giorno di libertà viene ad accusare di ben 3 omicidi un cittadino libero di Atene, un ufficiale della più grande città dell'Ellade. Forse il tuo non è coraggio, ma follia. Comunque le tue accuse sono solo chiacchiere, che non possono essere nemmeno portate in tribunale, perché né tu né i tuoi amici siete cittadini di Atene. E sai che solo un libero cittadino può recarsi in tribunale e accusare qualcuno di un delitto. Le tue chiacchiere possono solo servirvi per scrivere una tragedia e partecipare a qualche concorso. Un'ombra di disprezzo sulle labbra, piegate in brutto modo, fece per volgersi verso gli arcieri, ma prima che potesse aprire bocca, Demos lo bloccò. Non provare a chiamarli, non dare loro alcun ordine. Se dovessi solo percepire che Assiotea è in pericolo, ti ammazzerei senza pietà. Dovette essere il tono duro di voce del mio compagno a bloccare a mezz'aria la mano dell'uomo. Eudosso e l'astenia erano muti, le facce terre per lo spavento. Anch'io tremavo, ma capivo che era meglio non intervenire.